Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, mentre c'è maretta da parte dei sindacati, adesso ne parleremo dopo alcune indiscrezioni oggi presenti sul Messaggero, avvisano i sindacati che in caso di un intervento sul salario dei dipendenti pubblici, un nuovo blocco dei salari, sarà guerra. L'ipotesi ventilata oggi dal Messaggero era di una proroga di altri 2 anni del blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, che sono bloccate, lo ricordo, dal 2010, per cui dal 2010 ci sono 3.300.000 lavoratori dello Stato che non hanno avuto nessun rinnovo contrattuale. Confermata la misura anche dall'ultima legge di stabilità. Ma dicevo, mentre le reazioni dei sindacati di categoria, ma anche dei sindacati nazionali, la CGIL dice il nuovo blocco dei salari sarebbe inaccettabile, e ancora per quello che riguarda la CGIL del pubblico impiego, il segretario generale Carla Cantone, la pazienza è finita, siamo pronti alla mobilitazione. In questo caso il riferimento era anche all'ipotesi di un intervento sulle pensioni più alte, sottolinea la CGIL, in 15 anni le pensioni hanno perso il 30% del loro valore. Ma dicevo, mentre c'è maretta su questo, il governo è alle prese e sta cercando di capire, visto che, ripeto, il 29 ci sarà un Consiglio dei Ministri che in parte anticiperà la legge di stabilità con il decreto sblocca Italia, il governo sta cercando di capire di quanti soldi avrà bisogno per la legge di stabilità, che altro non è che la vecchia legge finanziaria. Ne parleremo in apertura perché, secondo quanto stima oggi Sole 24 Ore, la prossima manovra dovrà avere un valore di circa 20-22 miliardi contro i 16 miliardi previsti in precedenza. Perché questo? Per mantenere il deficit al 3% al massimo del PIL, dovevamo fare il 2,6, ma con la crescita che non c'è faticheremo a arrivare al 3%, e per mantenere il deficit al limite del 3% la manovra dovrà essere, dicevo, di 20-22 miliardi. E quindi sono 4-6 miliardi in più rispetto alle stime iniziali. Non basterà quindi i proventi, non basteranno quelli della spending review, e allora si ipotizza un intervento. Certo, c'è un vantaggio dei bassi interessi che paghiamo sul debito, quantificabile tra i 2 miliardi e mezzo e 3 miliardi e mezzo. Si ipotizzano maggiori introiti dall'evasione fiscale, ma sappiamo che questa è un'araba fenice, o meglio una chimera, per usare un linguaggio mitologico. E ancora interventi sui capitali all'estero, e poi l'uso dell'IVA aggiuntiva legata al pagamento dei debiti dovuti dalla pubblica amministrazione alle imprese. C'è poi chi ricorda che se non si ottenesse il 3%, la legge voluta dal governo Letta e dal ministro Saccomanni prevede una clausola di salvaguardia che scatta in automatico, cioè se tu non riesci a ottenere quel tetto scatta una clausola di salvaguardia, che altro non vuol dire che un aumento della pressione fiscale di 3 miliardi di euro sotto forma di minori detrazioni e ritocchi alle accise. Di questo parleremo. Parleremo anche di una persona, un manager famosissimo, nostro ospite più di una volta, e mi riferisco al numero uno di Luxottica, Andrea Guerra. Numero uno nel senso che non è il proprietario è Del Vecchio, ma è da 10 anni il numero uno come manager di Luxottica. Perché ne parlo? Perché oggi su Sole 24 Ore, un'indiscrezione, vede una rottura in corso tra Del Vecchio e Guerra, e quindi c'è chi parla di un allontanamento, di un esautoramento già a breve, c'è chi dice che si arriverà invece all'approvazione del bilancio, quindi marzo dell'anno prossimo, del 2015. Però insomma la vicenda è interessante anche perché ha avuto un risvolto immediato e anche brutale questa mattina in borsa. Ora il titolo ha dimezzato il calo, è arrivato a perdere oltre il 6% in borsa, adesso perde il 3,80%. Si fa notare da più parti che Guerra annunciò qualche mese fa la vendita di un pacchetto importante di sue azioni in Luxottica. Cercheremo di capire quale sia il motivo di uno scontro che non aveva dato tutte queste avvisaglie, al di là di un fatto che alcuni di voi ricorderanno: Andrea Guerra fu citato tra i possibili ministri o addirittura manager che il governo Renzi, appena insediatosi, voleva prendere, visto che Guerra aveva partecipato alla convention dei renziani alla Leopolda di Firenze. E vi fu, le cronache riportarono, un attrito in consiglio di amministrazione in cui Del Vecchio si sarebbe spazientito per la non risposta, il non diniego arrivato da Andrea Guerra, quindi il non aver negato subito di essere interessato a una poltrona da ministro o da amministratore delegato. Si ventilava il nome dell'ENI come gruppo in cui sarebbe potuto approdare Andrea Guerra. Questo però è l'unico contrasto che risulta alle cronache ufficiali. In realtà chiaramente ci deve essere qualcos'altro, perché in caso contrario, tra l'altro, la nota oggi del gruppo è una nota che non dice nulla, o meglio conferma che una tensione c'è, perché la nota di Luxottica, anzi un portavoce del gruppo lo ha dichiarato l'agenzia ANSA, dice: la società non commenta le notizie apparse oggi sulla stampa, al momento non è stato convocato alcun consiglio di amministrazione. Confermiamo che da tempo il presidente Leonardo Del Vecchio e l'amministratore delegato Andrea Guerra si stanno confrontando sulle migliori strategie future del gruppo, e quindi è su quel si stanno confrontando che chi vuol leggere tra le righe ottiene una mezza conferma. I confronti possono essere amichevoli o possono essere anche molto duri, e già il fatto che si parli di confronto sembrerebbe andare in quella direzione, e quindi non di un'azione congiunta ma di due idee a questo punto diverse che si confrontano. Se no, che cavolo di confronto fai se le idee sono uguali? Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Avremo anche un aggiornamento su Fiat, visto che è l'ora del recesso, da non confondere con recessione, del recesso, ossia scade a mezzanotte il diritto di recedere, di uscire dall'azionariato Fiat per tutti quegli azionisti che non hanno firmato la fusione Fiat Chrysler, e quindi la trasformazione di Fiat in FCA con la sede in Olanda. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Subito la borsa. Che al di là della vicenda Luxottica è piatta, piattissima, meno 0,14, Francoforte fa meno 0,18, Parigi fa meno 0,2, Londra fa meno 0,3, l'America più 0,1, insomma è una giornata veramente agostana. Non lo sarà il clima in buona parte d'Italia, ma sicuramente lo è quello della borsa. Popolare Emilia Romagna meno 3,1, Toz meno 1,60, Ubibanca meno 1,40, Prismian meno 1,20, come Mediolanum, Finmeccanica e Pop Milano meno 0,90, Jux meno 0,70. E poi bene, Enel Green Power più 2,40, Mediaset più 1,70, Wow Duty Free più 1,30, Saipem più 0,80 come Terna. Altre notizie, partiamo come sempre dal fronte internazionale. Allora, l'Argentina, per volere della sua presidente Cristina Kirchner, ha annunciato che invierà in Parlamento un disegno di legge per cambiare la giurisdizione dei tango bond e quindi permettere di pagare in Argentina i detentori di titoli che hanno accettato i concambi del 2005-2010, bypassando così la Bank of New York. E come riporta oggi sulle 24 ore, ieri Citibank, la banca americana, ha lanciato un appello al giudice Thomas Grisa affinché sblocchi il pagamento dei bond argentini. Che cosa è successo? Dice la Citibank che il giudice ha abusato della sua discrezionalità nello stabilire il blocco. Afferma inoltre Citibank che potrebbe perdere la sua filiale in Argentina se l'ordine restasse in vigore, perché il governo della Kirchner ha depositato oltre 500 milioni presso la Bank of New York affinché venissero poi distribuiti ai possessori di nuovi titoli accettati dai sottoscrittori dopo il default. Griesa ha detto di no alla distribuzione, obbligando l'Argentina a pagare prima gli hedge fund. Da qui il default tecnico. e Citibank, che è interessata a entrare nella partita tra il governo argentino e gli hedge fund, potrebbe consentire all'Argentina di uscire dall'impasse in cui è caduta. Da lì poi anche appunto la risposta da Kirchner. La vicenda è molto complicata, a mio avviso, insomma, abbiamo già fatto qualche approfondimento, per carità i giudici fanno il loro lavoro, ma insomma la decisione della Corte di Giustizia americana ha qualche linea di fragilità nel dare ragione agli hedge fund, con tutto quello che comporta poi per il governo argentino. Ma comunque andiamo oltre e commentiamo l'euro, perché l'euro è sceso per la prima volta da 11 mesi, quindi da quasi un anno, sotto quota 1,33 a 1,32,90. Praticamente era dal 13 settembre del 2013 che non arrivava a questo livello. Sempre sul fronte valutario, ma in questo caso riferimento alla sterlina, la Banca d'Inghilterra oggi per la prima volta in 3 anni non ha avuto consenso unanime su cosa fare nel suo board, nel suo comitato esecutivo, su cosa fare sui tassi di interesse, perché per la prima volta in 3 anni due membri della Bank of England hanno votato per un rialzo e non per il mantenimento dei tassi al minimo storico, allo 0,5%. In questo modo il governatore Mark Carney non ha avuto un'approvazione per consenso e gli altri 7 membri hanno voluto lasciare i tassi fermi, che per il timore che rialzare i tassi in questo momento creerebbe uno shock di vulnerabilità alla Banca d'Inghilterra stessa, alla Gran Bretagna stessa. Io non voglio polemizzare con la Germania, non più di quanto già non faccia, però un altro elemento su una frenata dei consumi, dei prezzi in tutta l'area euro, che sta colpendo anche la Germania, arriva oggi dai prezzi alla produzione, perché sono calati a luglio dello 0,8% rispetto a un anno prima e dello 0,1% rispetto al mese precedente. La flessione è maggiore delle attese di tutti gli analisti, che parlavano di dato invariato. Poi staremo a vedere se il dato si consoliderà, ma sicuramente è un ulteriore tassello che va nella direzione di un'Europa, o meglio di un'area euro schiacciata da una non inflazione, che è la conseguenza di consumi bassi e bassissimi. E adesso le bacchettate. È un po' di giorni che la stampa britannica, ma non solo, anche varie dichiarazioni degli hedge fund e dei fondi di investimento importanti, e sta bacchettandoli. Ieri abbiamo raccontato così il duro richiamo che era arrivato sull'Italia e sulla Francia, i due malati cronici dell'Europa, ecco per cui il motivo per cui il Financial Times sconsigliava la Banca Centrale Europea di fare quello che ha fatto la Federal Reserve in America, cioè stampare moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato dei paesi, perché diceva non è questo il modo in cui potete curare le malattie strutturali croniche di Francia e Italia, indicando invece in Spagna e Portogallo e anche in qualche modo la Grecia, paesi che si stanno riprendendo. Oggi torna l'attacco perché il Financial Times sottolinea come i problemi dell'area euro, un'area stretta fra un enorme debito in tanti paesi, una crescita stagnante e la prospettiva di una deflazione come ha avuto il Giappone per 10 anni, richiederebbero questi problemi una ristrutturazione del debito per ricominciare da capo. Unica alternativa, ristrutturazione del debito vuol dire però, attenzione, non è una bella cosa, lo fanno le società o i paesi che falliscono, quello che ha fatto la Grecia. L'unica alternativa, le riforme strutturali, e questo è il vero banco di prova per l'Italia, lo scrive appunto il Financial Times. Alcuni paesi infatti sono riluttanti tagliare il debito e quindi, perché sono molto esposti, restano solo riforme strutturali come ricetta di lungo termine. Il nuovo premier Matteo Renzi ha l'opportunità migliore di tutte per rompere con il passato. Il potere ridimensionato dei sindacati e l'esperienza fatta dagli elettori di una lunga crescita stagnante gli danno una grande chance. Ma timori sulla sostenibilità della situazione italiana li ha espressi in maniera ancora più forte un report di Bridgewater. Bridgewater non è una cantante jazz, è il più grande, vedo che è il più grande hedge fund al mondo. E dice: attenzione, l'Italia, a fronte di una situazione economica e di finanza pubblica in deterioramento dal 2008, negli ultimi 2 anni ha avuto lo spread e i rendimenti dei titoli di Stato che si sono mossi in senso opposto, cioè La situazione economica italiana è andata via via peggiorando dal 2008, ma da due anni a questa parte lo spread è tornato a essere su livelli accettabili, è calato e i rendimenti dei BTP a 10 anni sono ai minimi storici. Dice lo studio, questa è una forbice non giustificata dai dati reali e prima o poi dovrà ridursi o perché migliorano le condizioni economiche dell'Italia e quindi spread e rendimenti sui BTP restano come sono, oppure perché aumenteranno i tassi di interesse sui BTP e aumenterà anche lo spread. Bridgewater fa notare come dal 2012, superato il rischio euro e l'attacco all'euro, lo spread a 500 punti, sono affluiti in Italia capitali esteri per 160 miliardi di dollari, non sono tutti investimenti chiaramente in imprese, sono molti acquisti, soprattutto acquisti di titoli di Stato, che però in qualunque momento potrebbero decidere di abbandonare il paese. Le condizioni dell'Italia, conclude l'analisi di Bridgewater, sono depresse come mai lo erano state dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E poiché la BCE non fornisce un sostegno adeguato, il paese non è competitivo, probabilmente questa condizione persisterà. Allora, io non mi voglio dare il gufo da solo oggi, però attenzione, perché sono segnali, la stampa britannica, i fondi comuni di investimento anglosassoni, per carità, però una cosa è innegabile, noi stiamo vivendo ancora una situazione di grande credito nei confronti del paese, perché siamo il paese che sta crescendo meno tra quelle delle grandi economie dell'area euro e abbiamo ancora uno spread a 150 punti, abbiamo i BTP che sono al 2,36, vado a memoria, per cento di rendimento lordo. Questa è un'apertura di credito perché non è giustificato dai dati economici reali, il debito continua a salire, il PIL non ha nemmeno lontanamente centrato l'obiettivo che si era prefisso il governo Letta e poi anche il governo Renzi, le riforme sono per ora molto annunciate. Allora, perché lo dico? Perché poi sappiamo come funzionano i mercati, ripeto, non voglio darmi il gufo da solo, questi sono avvertimenti, segnali. Poi all'improvviso non vorrei mai assistere a un autunno in cui si svegliano i fondi di investimento anglosassoni e dico bene, questo paese, ossia l'Italia, non è affidabile perché queste riforme non riuscirà a farle, non cambierà passo, non cambierà verso, per usare i termini renziani, e quindi noi iniziamo a uscire dagli investimenti fatti in debito italiano perché poi parte uno e siccome pure lì funzionano gli effetti, diciamo, a catena, li abbiamo già visti. Poi si arriva al cosiddetto effetto stampede, vanno presi con molta attenzione, senza risposte, lo dico anche al governo, così, un po' ferragostane, per cui senza iniziare a dire ma tanto anche la Germania non cresce, che volete? Ho capito, però poi i fondi escono dal debito italiano, non escono dal debito tedesco, per cui attenzione anche al premier Matteo Renzi a pensare che siccome il resto d'Europa cresce poco, ma il comune è mezzo gaudio. E poi un invito anche al governo a presentare un piano sulle pensioni, se ce l'ha, e basta con le dichiarazioni. Perché lo dico? Perché anche oggi sulle pensioni abbiamo visto varie dichiarazioni di ogni genere, con viceministri che dicevano no, non è vero, non faremo nulla, addirittura il presidente della Commissione del Lavoro del Nuovo Centrodestra, Sacconi, che ha detto che è stato così un abbaglio estivo. Allora, se è un abbaglio, meglio non parlarne. Se invece si pensa di fare un'operazione sulle pensioni più alte, meglio parlare quando si ha capito se i 3.005 sono lordi netti, se sono 3.005, oppure se, come ieri spiegavamo, vi sarà anche un contributo di solidarietà sotto altre forme, se passerà il progetto avanzato dall'ex ministro Giovannini. Insomma, siccome mi sembra che c'è tanta confusione sotto il cielo, meglio stare zitti perché si scaldano gli animi per nulla, meglio avere un programma e quando si ha il programma sulle pensioni a questo punto presentarlo. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema, restiamo proprio sull'Italia, i conti pubblici, e iniziamo a fare i conti ai conti pubblici da qui al 29, praticamente tra weekend e ferie estive. Ci siamo quasi al Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero arrivare quelle novità che Renzi vuole portare poi il giorno dopo al Consiglio europeo. Thank you. prego. Allora, qua al nord non fa nemmeno caldo, quindi non posso nemmeno dare la colpa al Solleone, ma nessuno sta diventando anti-renziano, così come non eravamo pro-renziani. Ci siamo limitati a commentare, come sempre facciamo, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Economia, perché di questo si occupa questo programma, e ci è sembrato di notare una certa, si può dire, leggerezza nella reazione sul PIL italiano, perché poi, come si è visto, che anche la Germania cresceva di meno, ma anche la Germania cresce di meno, il problema è la crescita europea. No, Presidente del Consiglio, il problema è la crescita italiana in primo luogo. La Spagna è un'altra indicazione, la Francia, che pure è messa male su tante cose, lo 0,5 lo fa, quest'anno non farà lo 0,8, ma non ha mai avuto il segno meno. Il paese che è bloccato ed è fermo si chiama Italia. Poi che ci sia un problema di gestione della crescita a livello europeo, si figuri, sfonda una porta aperta. Che ci sia un problema anche in altri paesi, si figuri. Che le politiche fino adesso siano state sbagliate e procicliche, cioè abbiano aumentato la recessione, siamo d'accordo. Però il problema ce l'abbiamo noi, lo 0,8 non lo facciamo noi, e facciamo forse lo 0,2, e la manovra correttiva dovrà fare il governo italiano, dovrà farla lei. Correttiva non si può dire, giusto? La manovra aggiuntiva, una manovra di stabilità un po' più alta, si può dire, che poi è correttiva, perché invece che essere 14 sono 20 o 22. Marco Rogari del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Questo scrivi tu, è colpa tua, adesso, siccome qua i giornalisti non piacciono quando dicono le cose, ma insomma, qui non è nemmeno un problema di gufi. Se ho ben capito, non chiamiamola correttiva perché la legge di stabilità deve ancora uscire, quindi non correggi nulla. Diciamo una manovra più corposa del previsto. E inizialmente, da quello che avevamo capito, la manovra che dovrebbe iniziare a avere le sue linee guida già dal Consiglio dei Ministri del 29 e poi arrivare a metà ottobre, doveva essere di 16 miliardi. Perché tu stimi che dovrà avere un valore di 20-22? Perché per rimanere entro la fatidica soglia del 3% o quantomeno per non superarla, serviranno 4-5 miliardi in più, e poi bisogna anche considerare le cosiddette spese indifferibili con cui fare i conti, cioè il rifinanziamento delle missioni internazionali, la CIG, e quindi il quantum della legge di stabilità immaginato prima della pausa estiva dai tecnici del governo in circa 16 miliardi, qualcosina di più, dovrebbe a questo punto salire a 20-22 secondo le ultime ipotesi tecniche. Naturalmente la cartina di tornasole ci sarà al momento, come sappiamo tutti, della presentazione della nota di aggiornamento del DEF che è attesa per metà settembre. Ora, dove reperire questi 4-6 miliardi o 6 miliardi che mancano? Allora, io ero da sempre scettico non sulla spending review che ci vuole, ma un conto è rimodulare la spesa e renderla più efficiente, un conto è immaginarsi quei 14 miliardi a regime di risparmi della pubblica amministrazione, che boh. Anche perché, ripeto, questo per sfatare alcuni miti, la spesa per la pubblica amministrazione in Italia in rapporto al PIL non è più alta di altri paesi, è in linea con Germania, Francia e altri paesi. Il problema è che spendiamo male. Allora è un altro discorso, si può fare un ragionamento non così da bar. Allora, dicevo, però, reperire 4-6 miliardi, visto che insomma un vantaggio nell'avere uno spread a 150 punti ce l'abbiamo. Lì dovrebbero essere 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi e mezzo. E gli altri? Gli altri potrebbero arrivare un miliardo, i tecnici spero anche in qualcosina di più, dalla maggiore IVA legata all'operazione di pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione, che ieri in qualche modo ha incassato un primo segnale di favore da parte di Bruxelles dopo molte critiche per i ritardi accumulati dall'Italia. E poi verrebbe contabilizzata, diciamo così, una cifra che potrebbero essere 2-3 miliardi, quindi non esagerata, ma non utilizzabile per la riduzione della pressione fiscale, come sappiamo, dalla lotta all'evasione. Questo sarebbero, come posso dire, tessere del puzzle, anche se, come dicevi tu, resta il problema della tessera principale, cioè la revisione della spesa pubblica che, secondo il DEF, dovrebbe garantire 17 miliardi nel 2015, Questi 17 in realtà sarebbero 14, perché 3 sono già garantiti dagli interventi previsti dal decreto IRPEF varato nei mesi scorsi, quindi ci sarebbero 14 miliardi da trovare di tagli alla spesa, e non è un'operazione semplice. Adesso, oggi magari sarà che sono meteoropatico, però non è solo non è semplice, è che non abbiamo ancora alcuna indicazione. L'unica volta in cui abbiamo sentito parlare Cottarelli era per confermare che restava al suo posto, ma insomma, cioè, o tu hai qualche fonte in più, perché 17 miliardi o fossero anche 14 a casa mia sono un punto percentuale di PIL, cioè è una manovra finanziaria vecchio stampo, diciamo, no? Per cui non è proprio una cosina così che reperisci limando alcune spese marginali. Esattamente, è così, ma il Ministero dell'Economia, oggi lo ha fatto il Vice Ministro Morando, confermano che l'obiettivo resta questo, resta quello di trovare questi 14 miliardi per arrivare appunto a 17, 16, 17 indicati dal DEF. Al momento però non c'è una griglia di interventi già definita. È vero che ancora c'è tempo, perché la legge di stabilità... Certo. Sarà presentata a metà ottobre, quindi mancano 2 mesi, però insomma farne 14 appunto è un'impresa non da poco. Ecco, c'è poi l'ultimo elemento che io ricordavo in apertura, la famosa clausola di salvaguardia, quella introdotta dalla legge di stabilità del governo Letta Saccomanni. Sì, lì in realtà, a essere precisi, di clausole di salvaguardia ce ne sono diverse, nel senso che c'è quella principale, che è quella che prevede che in caso di mancanza di tagli di spesa dovrebbero scattare già nel 2015 interventi relativi a un aumento della pressione fiscale per 3 miliardi, interventi in ritocchi alle accise o minori detrazioni ad esempio. Quindi ci sarebbero 3 miliardi di clausola fiscale, chiamiamola così, ai quali andrebbero aggiunti, per fare un conto preciso, un altro 1,4 miliardi di clausola in termini di tagli lineari, cioè ci sono alcuni provvedimenti, come ad esempio quello che era legato al mancato taglio della detrazione IRPEF del 19% che fu rinviata all'inizio di quest'anno, che si doveva fare, e lì sono oltre 500 milioni che dovrebbero essere coperti dalla spending review. Se non ci fosse un equivalente intervento di spending review, scatterebbero automaticamente dei tagli lineari. Quindi c'è questo intervento e ce n'è un altro già previsto dalla legge stabilità Letta, la somma dei due fa 1,4 miliardi che si vanno ad aggiungere ai 3 della clausola fiscale. No, sto sorridendo perché c'è un ascoltatore che mi dice: leggimi ti prego, sembra la supercazzola, non se ne esce. No, il problema è che la correzione dei conti pubblici, perché una legge di stabilità va a correggere un andamento che altrimenti sforerebbe il tetto del 3%, questo serve la legge di stabilità, cioè a riportare, in teoria dovevamo avvicinarci allo zero, ma questo sappiamo come deficit sul PIL, sappiamo che non sarà possibile, però quantomeno restare sul 3%. Ora non sono, diciamo, arrampicature sugli specchi, è che riuscire a reperire queste risorse che sono aumentate, perché me lo chiedono molti ascoltatori, perché il rapporto deficit-PIL, essendo un rapporto, se vede diminuire il denominatore, il PIL, è chiaro che occorre a questo punto ridurre il deficit, se no il rapporto non sta al 3%. Ebbene, si tratterà di rimodulare varie voci e, come ricordava molto bene anche Marco Rogari, capire, a mio avviso, il pesce grosso è capire se veramente il governo è in grado di garantire 14 miliardi dalla spending review. Tutto il resto, se vuoi, sono anche operazioni un po' marginali, per carità, di qualche miliardo, ma insomma un miliardo che deve arrivare dall'IVA aggiuntiva legata al pagamento dei debiti della PA non è con quello che fai la manovra. Comunque, e il 29, da quello che voi state capendo, inizieranno ad arrivare le prime indicazioni o saranno così enunciazioni di principio fino al 15 ottobre? Indicazioni di massima, perché ripeto, il passaggio chiave è comunque quello dell'aggiornamento del DEF, che ci dovrà essere prima del 20 settembre. Lì, nel momento in cui si aggiorna il quadro macroeconomico, come sappiamo, i numeri diventano appunto le pietre miliari su cui costruire definitivamente la legge di stabilità. Quindi sì, il 29 ci sarà sicuramente una prima, diciamo così, istruttoria, però il passaggio chiave è quello dell'aggiornamento del DEF. Grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore. non commenterò invece, al di là di aver ricordato la notizia, la polemica innescata da alcune anticipazioni appunto del Messaggero di oggi, che vede i sindacati sul piede di guerra dicendo il nuovo blocco dei salari nella pubblica amministrazione sarebbe inaccettabile, Renzi smentisca o l'autunno sarà incandescente, e poi sulle pensioni, la CGIL, la pazienza è finita, siamo pronti alla mobilitazione. Anche il segretario della UIL Angeletti ha detto che attenzione, continuare a bloccare il contratto del pubblico impiego è un autentico scandalo, visto che sono già 6 anni che i dipendenti pubblici non hanno aumenti salariali. E la stessa cosa non si può dire dei dirigenti e dei politici, continua Angeletti. E sui dirigenti, in effetti, quello che abbiamo raccontato 2 giorni fa sui dirigenti delle regioni, che beccano sempre tutti il bonus perché raggiungono gli obiettivi, va in questa direzione. Faccio notare 2 cose però, che alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666 di cosa, sostanzialmente di cosa si lamentano i dipendenti della pubblica amministrazione per il blocco degli stipendi. Nel privato gli stipendi sono fermi o non ci sono più perché la disoccupazione si è scaricata praticamente tutta nel settore privato, e almeno il pubblico impiego da questo, cioè dalla cessione di rapporti di lavoro, dalla disoccupazione, dagli esuberi è rimasto immune. E però faccio anche notare che mi scrivono poliziotti, adesso ho perso il messaggio, che dicono insomma è 6 anni, vediamo se riesco a ritrovarlo, agente della Polizia di Stato, che percepiamo uno stipendio di 1200 euro netti al mese senza nessuno scatto perché sono bloccati anche i nostri stipendi, e questo, cioè, è anche vero. Ma ecco il motivo per cui dico prima di iniziare, cioè, che il governo presenti una manovra complessiva e articolata, perché altrimenti se iniziamo con lo stilicidio delle voci, prima le pensioni, poi i salari, così si arriva a ottobre veramente con gli animi accesi. E allora, Telecom oggi non presenta novità, c'è una scadenza invece importante per quello che riguarda Fiat, e la scadenza si chiama recesso, quindi a mezzanotte scade il recesso. Vi avevo promesso un'intervista della nostra Livia Zancaner all'economista Luigi Gingales per far capire qual è la situazione in questo momento per i piccoli investitori. Il diritto di recesso vuol dire che tutti quelli che non hanno votato a favore della fusione Fiat Chrysler, della nascita del marchio FCA, della sede in Olanda e tutt'altro, e la quotazione a New York, possono entro la mezzanotte recedere, cioè uscire da Fiat. La Fiat ha messo ha messo da parte 500 milioni di euro, 500 milioni di euro per pagare appunto quelli che vorranno uscire. Sentiamo intanto Zingales sulla situazione per i piccoli investitori. Per i piccoli azionisti è abbastanza semplice, perché devono comparare il prezzo di borsa con il prezzo di recesso. Il prezzo di recesso è di 7.727, quindi fin tanto che il prezzo di borsa è inferiore, conviene all'azionista chiedere il recesso. L'unica cosa di cui devono stare attenti è che il rimborso avverrà entro 180 giorni, quindi esiste un costo nel recesso, che è quello di bloccare questi soldi per 180 giorni. Qual è quindi il suo consiglio agli azionisti Fiat o a un piccolo azionista Fiat che magari ha i titoli da tanto, che è un cassettista? Dipende da 2 cose. Primo, quale disponibilità la persona ha, e secondo anche qual è la posizione da un punto di vista di potenziali capital gains. Perché se una persona ha disponibilità di liquidità e non ha problemi di capital gains perché ha comprato a un prezzo più alto oppure perché ha già delle perdite con cui può compensare, sicuramente conviene esercitare fin tanto che il prezzo è al di sotto del diritto di recesso. Ovviamente uno deve tener conto appunto del fatto che se realizza deve pagare un capital gain e che blocca questi soldi per circa 180 giorni. Bisogna valutare secondo lei anche le prospettive future del titolo o non c'entra? Come azionista individuale no, per 2 motivi. Il primo è che comunque la decisione di un azionista individuale, anche se c'è una condizione a questa fusione, diventa irrilevante, perché le mie 1000 azioni difficilmente spostano in una direzione o nell'altra. L'altro punto è che se noi abbiamo una visione ottimista del titolo Fiat, quello che dobbiamo fare è comprare un titolo Fiat in borsa oggi e contemporaneamente esercitare il diritto diritto di recesso su quelli che abbiamo già. Perché? Perché il titolo oggi in borsa non ha più il diritto di recesso. Il diritto di recesso è per gli azionisti che erano azionisti dal 1° di agosto. Quindi se io oggi compro un titolo Fiat, questo titolo non mi dà il diritto di recesso. Allora, se io ho una visione molto positiva sul titolo Fiat, mi compro oggi un titolo Fiat e che comunque pago meno di quello che ricevo realizzando il mio diritto di recesso. Secondo lei i piccoli azionisti beneficeranno di questa operazione di fusione Fiat Chrysler? Questa operazione ha due aspetti, ha un aspetto industriale, secondo me molto positivo, ha un aspetto invece di corporate governance molto negativo, e diciamo è stata un po' una furbata di Fiat quella di metterli insieme, perché rende più difficile per gli azionisti valutare le due cose. Però sicuramente lo spostamento in Olanda con la possibilità delle loyalty shares dà uno strapotere a Exor a danno degli azionisti di minoranza. Allora, Andrea Malan, un aggiornamento, come sta andando? Il titolo oggi era fermo, ieri abbiamo avuto tutta la vicenda del report di Credit Suisse e varie dichiarazioni, manca poco insomma, no? Mancano... Il titolo è in lievissimo ribasso, era 7,15 euro contro i 7,727, significa che ci sono un po' molti 7, è inferiore del 7% circa al valore di recesso, quindi questo è il capital gain potenziale, la plusvalenza per chi recede comparando oggi, come ha suggerito Zingales. In ogni caso c'è una plusvalenza, un vantaggio rispetto al prezzo di borsa, che rende proporzionalmente un po' più probabile che un certo numero di azionisti decida di recedere. Io sono andato a vedere oggi cos'era successo l'anno scorso per CNH Industrial, lì c'era stato un voto massiccio a favore della fusione, quasi il 98%, e quasi nessuno aveva deciso di recedere. Ma perché? Perché allora il prezzo di borsa era rimasto al di sopra del valore di recesso e quindi certo, non aveva senso recedere. Certo. Non aveva senso. Questa volta il discorso è più sfumato. Ovviamente è importante che i singoli piccoli azionisti decidano in maniera ragionata, come ha giustamente ricordato Zingales. La cosa verrà peraltro decisa dai grossi azionisti, dai grossi fondi, da quelli che hanno il 2% come la banca norvegese o la banca centrale cinese, a quelli comunque che sono moltissimi, che hanno uno 0,1-0,2%, che però sommato può pesare. Ricordiamo che bastano circa 65 milioni di azioni, che equivalgono circa al 5% del capitale, in teoria, per bloccare la fusione. L'opinione ancora oggi sul mercato è che alla fine l'operazione si farà, perché la plusvalenza non è così elevata. Tra quelli che hanno votato a favore della fusione, tra una serie di investitori italiani che magari vogliono in qualche modo non scontentare troppo la Fiat e quindi tengono le azioni, il fatto che probabilmente qualcuno che è scontento dell'operazione ha già venduto sul mercato, come hanno dimostrato i cali dei primissimi giorni dopo l'assemblea, quindi la sensazione è che comunque l'operazione andrà avanti. Certo, in ogni caso se i recessi saranno di qualche centinaio di milioni, tra l'altro non bisogna dimenticarlo, è comunque un esborso per l'azienda, che quindi dopo dovrà ricollocare le azioni sul mercato. Staremo a vedere, a mezzanotte scade il diritto, grazie Andrea Malan. Dunque, c'è una società che capitalizza quasi 20 miliardi di dollari, ha ricavi per 7 miliardi e 300 milioni, ha chiuso il 2013 con un utile di oltre mezzo miliardo di euro, 544 milioni di euro, e negli ultimi 5 anni il valore delle azioni di questa società è cresciuto del 133%, i ricavi sono saliti da 3 miliardi e 2 a 7 miliardi e 3. Poi c'è il numero uno di questa società che da 10 anni che la guida e che è stato l'artefice, visti i numeri che abbiamo appena ricordato, di buona parte di questi successi. Il gruppo si chiama Luxottica, che vuol dire il principale produttore al mondo di occhiali nella fascia lusso, e che controlla i marchi Ray-Ban, Oakley, Persol, produce gli occhiali per Dolce & Gabbana, Armani, Bulgari, lo conosciamo tutti. Andrea Guerra molte volte è stato nostro ospite, è giovane, è renziano, nel senso che ha partecipato alla Leopolda, era candidato per fare il ministro o il numero uno addirittura dell'ENI, ma non si conoscevano attriti, diciamo, formali, forti, con il numero uno, con il proprietario della Luxottica, il fondatore che è Leonardo Del Vecchio. Ebbene, secondo quanto scrive oggi Sole 24 Ore, questi attriti sarebbero così forti da aver quasi spinto, aver deciso che Andrea Guerra lascerà il gruppo. Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, tra le ipotesi, abbiamo 5 minuti. C'è chi dice, sì, attenzione, non è piaciuta l'operazione di Guerra su Google Glass e quindi la tecnologizzazione, la digitalizzazione che Guerra vuol dare a Luxottica. C'è chi dice, no, non è piaciuto il fatto che lui fosse nato alla Leopolda a schierarsi, insomma, politicamente con Renzi. E c'è chi dice, no, guardate che qui il problema è più profondo, c'è una diversità di strategie e non è un caso che Guerra abbia venduto le azioni che aveva in portafoglio qualche mese fa. Qua delle tre, la carta 1, la 2 o la 3? Ecco, proviamo a mettere tutte insieme e fare un bel frullato, e che cosa viene fuori? Uno scontro generazionale molto duro. La percezione che si ha di questo scontro è veramente quello di due visioni che sono diventate contrapposte. Uno che tenta di portare, questo parlo di Guerra, naturalmente, di avere una gestione, una presa gestionale sempre più forte sulla Luxottica, quasi, non voglio esagerare, ma quasi come se fosse un po' cosa sua, come una nuova impresa, un nuovo gruppo che entra nell'era tecnologica, fa gli accordi con Google, entra nel settore della ricerca e della tecnologia. E soprattutto i nuovi ambiti di mercato, come quello di Google Glass, ad esempio. Ma c'è anche un'altra visione di chi il gruppo l'ha costruito e che rimane azionista di maggioranza e ritiene che il manager non è una variabile indipendente, e questa è la visione di Del Vecchio. Possiamo subito dire una cosa, operazioni come quella di Google e come altre passano per il consiglio di amministrazione, dove siede anche Del Vecchio. È difficile dire che lui era contrario, se fosse stato contrario probabilmente non si sarebbe fatta l'alleanza con Google. Ma veramente io credo che questo sia, al di là della governance, di quanto si cerca di fare quando si parla di separazione fra proprietà e gestione, rimane il punto che quando si è padroni si vuole esercitare questo diritto, e questo è quello che ha fatto Del Vecchio. Mi sembra di capire dalle tue parole, perché ti ho perso in alcuni passaggi, che da un lato tu dai per cosa fatta la separazione, o per cosa ampiamente fatta. Devo dire che al di là del titolo, che stamattina ha preso una scoppola, meno 6, poi ha recuperato in parte, ma è il peggior titolo di quelle maggiore capitalizzazione, meno 3,60% il finale a 40,55 euro. Ma al di là del titolo in borsa, anche il comunicato di Luxottica, che dice: confermiamo che da tempo il presidente Del Vecchio e la D. Andrea Guerra si stanno confrontando sulle migliori strategie, non è che abbia messo una mano a far tacere le voci. Quindi confermi che lo scontro è in atto e che è quasi uno scontro, diciamo, generazionale di visione, più che su singoli casi o tra elementi economici di accordi o elementi che hanno a che fare con la politica. Ti dicevo, ho parlato con Guerra, lo stesso Guerra mi ha detto chiaramente: potrei dartene 10 di motivi. Questo è abbastanza emblematico del patto di dire su cui 10 dei motivi di disaccordo di Del Vecchio nei suoi confronti, perché su questo Guerra è stato molto chiaro, dicendo: io non farò mai un passo indietro, me lo farà fare lui sicuramente, perché questo è quanto siamo stabiliti. Guerra parlava addirittura della possibilità di che ciò avvenisse già a settembre, all'inizio di settembre, non assolutamente, anche perché, diciamolo chiaramente, società con un respiro globale come la Luxottica si confrontano con gli investitori di ogni parte del mondo, non possono dare certamente la percezione di uno scontro al vertice, cioè di una paralisi. Quindi la frattura è insanabile. Sì, la frattura è insanabile, ne ha preso atto anche la borsa, d'accordissimo con te che a questo punto, per una società che è quotata in America, che ha una visione globale, prima risolvi la cosa, cioè prima il divorzio si chiarisce in una massima trasparenza, meglio è. Grazie anche al vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Allora, al di là del divorzio estivo, ormai quasi certo, tra Del Vecchio e Andrea Guerra, domani torna Focus Economia dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.